Allora, qui intanto è partita una sigla per questa serata speciale, che sarebbe la sigla di Altri Suoni, ma questa sera è una puntata speciale di Altri Suoni, 451 frammenti sonori, dedicata al crowd rock, per cui facciamo partire adesso la sigla vera. Allora, questa è la sigla di speciale crowd rock con un brano, penso, storico per quanto riguarda la storia della musica, direi, Allo Gallo dei Noi. Degli Stereolab, sì, l'hanno fatta anche loro, forse. E niente, abbiamo una serie di ospiti, oltre ovviamente a Max ed Eliseo di 451. Che salutiamo, ovviamente. Buonasera. E abbiamo il mitico Gino, è tornato con noi. Ci siamo qui. Gino Dal Solere ogni tanto torna a farci visita e poi abbiamo un altro grande collaboratore che era venuto anche l'anno scorso per Wave 80, DJ Tetro. Buonasera a tutti. Eccoli lì. Insomma, una serie di grandi vecchi della musica. Dinosauri. Ma no. Proviamo a rivitalizzare un po' sia la serata che questa cosa, perché a forza di ascoltare le cose moderne, tra virgolette, degli anni 2010-2012, viene sempre più fuori questa cosa di ma questo l'ho già sentito, ma questi qui lo facevano già negli anni 70 i tedeschi, eccetera, eccetera. Alla fine ci è venuta l'idea di vedere, allora andiamo a vedere le basi, anche perché negli anni 70 forse non c'erano tutti quelli che ascoltano, molto banalmente. Molto probabile. Per cui anche per un fatto anagrafico e poi con un po' anche di collegamenti con questi nuovi giovinotti che fanno queste musiche molto ispirate a queste musiche degli anni 70, perché il periodo tra il 70 e il 75 forse è stato il periodo più caldo per quanto riguarda questo nuovo movimento musicale. Beh sì, senz'altro. Io magari torno indietro di un paio d'anni, perlomeno dal Festival di Essen del 68, quando i primissimi gruppi tedeschi cominciarono a farsi conoscere insieme, che ne so, a quel tempo ci fu Frank Zappa, addirittura Tim Buckley al Festival del 68, l'Essener Festival. E lì suonarono la tribù degli Amondul, suonarono addirittura i Limbus, cioè nomi che ancora oggi sono rimasti semisconosciuti, insomma, non certo gli Amondul, che poi si sono fatti una vera carriera musicale nel bene e nel male. Insomma. Cosa c'erano? Gli Amondul 1, no? All'epoca? Sì, c'era ancora Amondul 1, però c'era già la scissione, c'era già stata la prima scissione, oppure era in atto, insomma, e quindi dovevano presentarsi in 11. È raccontato quell'aneddoto lì sul libro di Ralf Ulrich Kaiser. Come si chiamava? Ralf Ulrich Kaiser. Sì, che era guida alla musica pop e parlava appunto di questo incontro di Essener dove erano stati annunciati 11 personaggi, tra cui 3 bambini, alla fine si presentarono soltanto in 8. E comunque c'era un confluire della comune Dul 1 e 2, insomma. Ed erano gli anni? E Essener, questo fu l'anno del 68 proprio, nell'autunno del 68. Se vogliamo partire poi da lì, allora sì. Ma non esisteva ancora, no, il termine cosmice, kraut? No, perché là è stata un'invenzione di Quando è stato inventato il termine crowd rock? Beh, è un brano dei Faust, quindi credo che automaticamente venga... Sì, però qualcuno avrà deciso di usarlo. Io sinceramente non me lo ricordo. L'utilizzo non è conosciuto. È venuto anch'io così spontaneo. Ricordo, infatti. 13. Bene. L'ultimo. No, ecco, per dare un'idea di quello che poteva essere adesso a grandi linee, perché chiaramente non c'è certo tempo per raccontare la storia di ogni gruppo, insomma. Però gli Amondul, Gioco Forza, sono stati comunque i primi, insieme ai Camp probabilmente, che già nel 68 comunque il famoso Ralph Dammer e Canaxis, se vi ricordate, uscì proprio nel 68. Sì, probabilmente il primo germe è nato alla fine degli anni 60, e l'esplosione è stata poi all'inizio dal 70, degli anni 70, direi, diciamo. Sì. E infatti questo disco è proprio del 70, quello che, con cui personalmente aprirei. Un po' perché ci sono anche particolarmente affezionato e un po' perché finalmente qualcuno cominciò a pensare che oltre Pink Floyd c'era qualcos'altro. E a quei tempi fu proprio l'odiato Ciao 2001. Addirittura. Fu proprio l'odiato Ciao 2001 a parlare, almeno per quanto mi riguarda, sì, perché ancora non esisteva né Gong né Muzza, che non c'era nulla. No. Cioè, qui in Italia almeno c'era veramente, come dire... E Ciao 2001 per la prima volta, insomma, dice: ah, sapete che esistono anche gli Amondul, no? E gli Amondul vennero anche in Italia proprio io mi ricordo che ero studente a Brescia e mi mangiavo le unghie perché, ahimè, ero minorenne e loro suonavano a Travagliato, in provincia di Brescia. Io studiavo a Brescia. Un nome, quindi, un programma. E non ce la feci, insomma, fu un disastro. E poi dicono che il concerto non fu neanche poi eccezionale, insomma. Però Yeti fu un album fondamentale, insomma, uno dei capisaldi. Credo che anche il nostro Julian Cope, sì, lo tratti molto, sì, bene. Forse la parte più psichedelica proprio di quel periodo. Beh, tedesco. Sì, loro avevano cominciato cioè il primo nucleo degli Amondul cosiddetti 1. Fece questa session di registrazione interminabile che durò un intero weekend, proprio nel 68. Da questa session interminabile, fatta praticamente di chitarre semiscordate, bonghi, percussioni, voci in libertà, insomma, delirio freak puro, fecero uscire ben 3 dischi però dopo. E quindi uscì Psychedelic Underground, poi Collapsing, e poi l'unico decente, davvero bello, secondo me, accreditato alla ditta Amondul 1 è Paradise Waltz, che c'erano già dentro tutti i germi del psychedelic folk. Era un disco molto acido, molto psichedelico, acustico, bello. E su Yeti, che invece è un disco di psichedelia più orientata al rock, ma con molti inserti acustici e psych folk, c'è questo pezzo che è paradigmatico, questo Sandals in the Rain, che è un'improvvisazione di 8 minuti che chiude poi anche il doppio vinile, dove ci sono praticamente elementi della prima comune Dul e della seconda, insomma, quelli che si sono formati come Amondul II in seguito alla famosa scissione. E ascoltiamolo. Yes to the Lord, being in the land. You man, give it up to go as soon as I can, seeing what you never like. Sfumiamo un pochino anche perché abbiamo materiale per circa 200 ore di trasmissione, penso che condensare il tutto in poco non sarà facile, ma chiaramente improvvisiamo un po'. Per forza di cose, anche perché le derive sono troppe. Sì, anche perché stavamo pensando adesso che alla fine nel crowd rock si possono forse distinguere tre filoni fondamentali, cioè la psichedelia, questa qua degli Amondule o Popol Vuh, quelli un po' più mistici, e la parte più elettronica e metronomica, Kraftwerk e noi, e i Can dove li mettiamo? In mezzo. Sono nel mezzo, in mezzo. Sono il primo gruppo New Wave. Esatto, anche perché non a caso diceva Gino che sono i più citati forse. Ma sì, diciamo che sono anche i più attuali per certi versi. Lì è, vabbè, insomma, poi ognuno ha le sue visioni, ecco. Sicuramente Cope potrebbe dire che gli Amondule sono stati importanti, come magari lo sostengo anch'io. Però è vero che sono stati importanti per un periodo decisamente storico, piuttosto limitato, sì, sì, cioè sì. Appunto fino ai 72, l'anno di Wolf City, insomma. Diciamo la cosa, che ecco, per chiudere sugli Amondule, perché chiaramente non si può andare molto oltre visto che il materiale è tanto. E furono anche il gruppo più politico agli inizi, insomma, e questo credo che gliene vada in qualche modo reso merito. E c'è una curiosissima storia che magari ormai la sanno in tanti, insomma, però nella loro comune aperta dalle parti di Monaco e di Baviera ci girava veramente un po' tutta la scena alternativa, controcorrente, ma anche la scena decisamente più antagonista dell'epoca, insomma. Loro non hanno del resto mai fatto mistero, insomma, di essere in qualche modo dei selvaggi antagonisti di quello che era il regime di allora. Per cui capitò una volta che, di ritorno da un tour, la buona Renate Knaup e Chris Carter, insomma, stanchi morti, arrivano al mattino, e chi si trovano nel letto? Niente meno che Andreas Bader, Gudrun Esslin. Ah, ecco. E la situazione fu abbastanza imbarazzante, anche perché chiaramente, insomma, questi qui dicono: ma che cazzo ci fate qui, insomma, no? Cioè, abbiamo bisogno di ospitalità, ok, però, vabbè, insomma. Allora, vabbè, alla fine hanno concordato, potete stare qui per una notte, domani... Domani tutti in galera. E, sì, evidentemente si conoscevano, però la situazione della Bader-Meinhof era già problematica, insomma. Ormai si era già davvero già passati alle armi, per cui non era più una semplice situazione di movimento. Chiaramente per racconti e per soprattutto letture fatte postume, chiaramente noi siamo nati in quegli anni lì, quindi... Però sapevo ad esempio anche una scena, microscena berlinese, tipo i Checkpoint Charlie, magari la Commune Ein, che anche quella molto politicizzata. Esatto, vero? Infatti ci furono proprio scambi diretti tra Monaco e la Commune Ein di Berlino, proprio, cioè praticamente gli Amundul erano spesso di casa, insomma, e viceversa. Ci fu proprio un interscambio, ma per un po' di anni le cose funzionarono anche piuttosto bene. Poi è chiaro che ci fu tutta la degenerazione, insomma, la questione della discussione sulla lotta armata, per cui è ovvio che quando Bader e la Essling si presentarono nella comune di Monaco avevano la macchina già piena di armi, insomma. E questo però loro lo scoprirono poi il giorno dopo, per cui praticamente erano inseguiti, insomma, cioè praticamente questi qui... c'è una bella intervista, credo che sia arrivata su Audion, dove Chris Carter dice: non ne potevamo più perché... cioè, la polizia veniva un giorno sì, un giorno no, a romperci i coglioni, a perquisirci, ci ribaltava la casa sotto sopra, insomma, eravamo visti come non solo dei dropout, ma addirittura come dei terroristi, anche se noi poi di fatto non lo siamo mai stati, insomma. Per cui, sì, ci furono un po' di problemi all'interno della comune, spaccature varie, e poi da un punto di vista creativo devo dire che fino al 72 hanno retto bene, poi anche loro sì, si sono un po' persi mentre invece erano gli anni in cui sono decollati proprio i Can, che ci esistevano già nel 68, però Tagomago credo che sia uno dei punti di partenza notevole, anche se non è il disco che io preferisco, non so cosa ne pensate voi. Beh, c'è Alleluia, che però è 18 minuti di puro delirio, sì, veramente New Wave. Ma loro hanno già tutti i germi per di influenzare tutto quello che sarebbe venuto dopo, perché poi anche i Neje Bamiyazi sono questo pop stralunato che... con world music e ante litteram, no? Sì, una mescola. Infatti adesso ho in sottofondo Oh Yeah di Tagomago, che ovviamente non potendo mettere un brano di 18 minuti cerchiamo di dare un'idea di che cosa fosse Tagomago, e poi comunque siccome sono stati probabilmente più creativi, direi di fare un rapido excursus, di parlare un pochino anche di altri due o tre brani, appunto, da Ege Bamiyazi e da Future Days, che sono la summa, diciamo così, di quel periodo lì, 71-73 mi sembra, no? È il punto focale della loro massima creatività. E citatissimi da tutti, e il drumming di Jackie Lee Bezait, che è ancora, credo, molto attivo, è inconfondibile. Inconfondibile, un drumming assolutamente unico. Ascoltiamo un attimo e poi ne parliamo. Allora, abbiamo sentito una parte di questo brano molto ritmato, molto sincopato, con i tipici ritmi, come dicevamo prima, di Jekyll and Hyde, ma vogliamo un attimo parlare forse un po' più dettagliatamente dei Can, perché, come abbiamo detto, sono il gruppo seminale di questi, e ricordiamo un po' tutti quanti, anche quello, l'unico che non c'è più, perché gli altri sono tutti vivi. Sì, Michael Carroll. Eh sì, che se n'è andato purtroppo, era il più giovane di tutti e se n'è andato prima di tutti. E già da un bel po', se non sbaglio, anche sono diversi anni ormai. Sì. Anche perché qui stiamo parlando, come credo quasi poi tutti questi musicisti qui, classe anni 40, siamo tutti da intorno ai 70 qui, chi è vivo. Più o meno. A parte Redelius che ne ha 80. Sì, Zucchai comunque è del fine degli anni 30, se non erro. Ah, ecco, per cui stiamo parlando di persone che comunque hanno una certa età. Zucchai diciamo è così. pre-40, non vorrei scommetterci, sì, ma... Sì, anche lui è del 38-39. Sì. Forse Zucchai anche è il bassista che ha lavorato. Tu, Vivian, ti ricordi un pochino? Zucchai ha lavorato con un po' di tutti, con un po' tutti. La cosa, la collaborazione più famosa è quella con Ja Wobble, anche con David Sylvian. Con David Sylvian anche hanno fatto un progetto ambient bello, tra l'altro. Sì. Però si è un po' spento ultimamente, non, non sta facendo che non, non po'. Ho notizie di produzioni, sì, cose di questo genere, ma quasi tutti sono. Irmin Schmidt sta ancora facendo qualcosa di suo, sta facendo delle sonorizzazioni, ho visto, è il tastierista anche lui. Sì, credo che lui abbia fatto ancora alcune colonne sonore, poi sì, aveva questo progetto con Kumo. Esatto. Per cui insomma stiamo parlando di allegri arzilli settantenni che stanno ancora cercando, perlomeno chi più chi meno, a fare qualcosa a distanza di 40, anzi un po' di più, perché l'anno scorso è stato fatto il quarantennale, se non sbaglio, di Tagomago. Esatto, 71. Sì, 71. Sì, sì, 71-2011. In Tagomago quest'anno si potrebbe fare il quarantennale di quello che è Ege Bamiasi. È il disco più strano, forse. È il disco forse meno regolare. È quello dove forse fanno anche più pop, paradossalmente. Sì, sì, quindi sì, diventano... Sì. Che però contiene il mio pezzo preferito in assoluto dei Can, insieme ad un altro. Secondo che... lato, sospetto. Secondo lato del disco. Ma no, è una canzoncina di... quanto dura? Jerry quattro minuti e Sing Swan Song. Sì, poi dimenticavamo che i Can erano un gruppo appunto dove c'erano delle canzoni, c'era anche il cantante. Sì, c'era il cantante. Non l'abbiamo citato, Damo Suzuki. Damo Suzuki, un giapponese raccattato per strada praticamente. Te la ricordi la che storia di Damo? Che è più attivo oggi. Sì, è stato, lo ricordo che lo trovarono, che si esibiva non so come, non so dove, lo presero con loro, ma proprio artista di strada puro. Quindi trovato e utilizzato immediatamente. Quindi un personaggio, fra l'altro, attivissimo, appena uscito un disco con la sua band, si è esibito a Roma da pochissimo tempo. Quindi forse l'unico veramente molto attivo ancora. Io non so sinceramente cosa fa adesso. Definire il genere è un po' difficile, comunque è rimasto su quell'onda questo... Beh, per dirti, ci ha suonato con lui anche di recente Roberto Bettarchini degli Starfuckers. Ci ha partecipato pure lui, insomma, per cui lui è molto aperto, lavora molto in Italia soprattutto. Lavora moltissimo in Italia. E allora ascoltiamoci questo gioiellino, Sing Swan Song, questa dolce nenia molto cullante, con ancora questo drumming incredibile di Gibbs Hyde. Certo. Birthday to sing one song. Beh, sì, siamo senza parole quasi, nel senso che è un brano ancora modernissimo, ancora assolutamente attuale, come quasi tutti i Can, mi viene da dire. Ottima scelta. Di cui tra l'altro diamo un'anticipazione a chi ci ascolta, notizia freschissima, sta per uscire adesso a giugno un box triplo che si chiama The Lost Tapes. Quindi nastri perduti scovati chissà dove, non so nemmeno da chi, comunque qualcosa che era in qualche modo sfuggita anche a loro stessi, che però sono saltati fuori questi nastri. Io ho letto per ora solo la recensione che c'è su The Wire, quello che è in uscita adesso a giugno, dove c'è Rob Young che lo recensisce e ne parla davvero molto bene, perché dice che non sono praticamente i classici fondi di magazzino, insomma, ma si tratta proprio di session del periodo storico e oltretutto tutte piuttosto interessanti, insomma, per cui lui lo evidenzia dicendo: questo non è il solito disco raffazzonato tanto per raschiare il fondo del barile, ma in effetti è un tassello in più che va ad aggiungersi alla loro storia. Sì, insomma. Allora dunque non solo per appassionati forse. Io sono curiosissimo infatti, perché a questo punto... Ma tu sei un appassionato. No, cioè un appassionato sì, però non sono un collezionista al punto tale che se un musicista anche amatissimo mi fa una schifezza, io non è che lo compro, insomma. Bene. No? Insomma, dobbiamo mettere mano a portafoglio. Prepararlo. Il problema è quello, no? Perché sarà un triplo e quindi non penso che... Comunque, per chiudere un attimo il discorso dei Can, proprio 2:02, perché ci sta, perché questa ritmica che c'è in Future Days, se tu volevi mettere Bel Air che dura 18 minuti... Ma il problema di Bel Air è che a un certo punto quel pezzo parte con una nenia dolcissima, molto lenta, molto cadenzata, e poi dal decimo minuto in poi inizia questa ritmica ossessiva, imponente, esatto, che cresce, fino ad arrivare ad un climax che secondo me, per me, è la summa, il vertice più alto raggiunto dal drumming di Liebezeit. Sarebbe carino ascoltare proprio quei 3 minuti, però bisognerebbe andarseli a scovare, sì, perché sono 4-5 minuti complessivi dove secondo me l'apoteosi ritmica, secondo me, dove lì non ce n'è proprio per nessuno. Allora proviamo al volo adesso con Future Days, brano omonimo, e poi dopo il consiglio è chiaramente andatelo a procurare questo disco, perché è una pietra miliare della musica del Novecento. Mi voglio sbilanciare. Non si può negare. E ascoltiamo questo e poi proviamo a fare questo missaggio. Ci proviamo. Let's make it. Vabbè, sì, abbiamo strafatto coi can, direi. Abbiamo ascoltati abbastanza, abbiamo spero reso l'idea e fatto venire voglia a qualcuno di conoscerli bene. E adesso passiamo invece a un gruppo ancora più fuori, stavamo dicendo, forse ancora più rivoluzionari, ma che hanno forse avuto meno seguito, un po' troppo di nicchia, i Faust, questo mistero strano. Anche se poi sono stati quelli, forse insieme ai Can, i Can quelli più citati, però i Faust quelli più suonati, perché hanno fatto un sacco di collaborazioni, anche ultimamente, anche se non è più la formazione originale, se pensiamo a collaborazioni con Narsoy Tund, addirittura con Dalek, sì, che è uno dei progetti pop più belli degli ultimi anni. Insomma, quindi... Non hanno continuato a operare. E poi forse uno dei dischi più assurdi della musica cosmica, nel senso positivo del termine, quello con Tony Conrad. Beh, certo. Minimalismo massimalista americano portato... Quello fu una pietra miliare, tra l'altro del 72 anche quello, Oltre al 72 fu l'anno di Safar, ma anche l'anno di Outside Dream Syndicate. È vero. Hanno davvero... Mirabilis, come dire. Io non sono mai riuscito a catalogarli, Faust. Devo dire anche che li ho ascoltati sempre poco, perché erano troppo strani, cioè un po' così. Ma incatalogabili. Qualcuno si ricorda? Io mi ricordo, perché magari sono un po' vecchiotto, ma anche forse tu, Jerry. Grazie. No, vabbè, insomma, più o meno. No, ma nei primi anni 70, non so. A un certo punto circolò la voce, leggenda, falsità, quel che era, che i Faust erano nazisti. Accennavamo questa cosa, ma addirittura si sono dovuti sciogliere per questa cosa. Si fuggivano come la peste, cioè voglio dire, dovevi vergognarti a dire che ti piacevano. Sì, cioè, io mi ricordo questa scena qua, l'ho memorizzata. Ma in Faust Tape invece c'è addirittura una piccola parte dove inneggiano, c'è una registrazione della manifestazione dove inneggiano a Marx. Quindi sì, no, ma loro erano dei pazzi scatenati, probabilmente anarchici, che ne so, sicuramente. Sicuramente. Nella musica lo sono. Adesso, nella difficile scelta, abbiamo scelto il brano introduttivo di Faust So Far, che è il loro secondo, se non sbaglio. Secondo, sì, sì. E It's a Rainy Day, Sunshine Girl, che è questa specie di nenia ipnotica in cui... dicono in continuazione questa frase, con una percussione sotto assolutamente tribale, e poi è il caos. E poi di tutto. E poi è il caos. Proviamo a ascoltarlo. Abbiamo fatto un piccolo buco, troppa roba per le mani, adesso arriva. Thank you. sunshine.